5B. Ascolta e rispondi. Quanto tempo ti ci vuole per finire il lavoro? Mi ci vuole poco tempo. Quanto tempo ti ci vuole per arrivare a scuola? Mi ci vuole poco tempo. Quanto tempo ti ci vuole per fare gli esercizi? Mi ci vuole poco tempo. Quanto tempo ti ci vuole per tradurre il libro? Mi ci vuole poco tempo. Quanti soldi gli ci vogliono per la casa? Gli ci vogliono molti soldi. Quante ore gli ci vogliono per arrivare a casa? Gli ci vogliono molte ore. Quanti mesi gli ci vogliono per preparare la tesi? Gli ci vogliono molti mesi. Quanti anni gli ci vogliono per imparare il cinese? Gli ci vogliono molti anni.